sotto i banchi di scuola. Volevamo libertà, ci hanno dato la droga. Nuove vittime di uno stato innocente. Piccole persone chiuse in piccole finestre. Ho guardato per anni gli occhi di chi mente. Nessuno lo sa che fine faremo. Non cambiare il mondo, cambiavo mente. Volendo cambiarlo, cambiavo davvero. Ho venduto chili solo per avere i soldi. Ma ti guardi alla fine e pensi che cos'ho. Per avere solo quello che avevano tutti. Solo per avere ma davvero poi. Resti qui. Qualche le persone sono uguali a me. Io che non so mai mai stare vicino. Qua dove l'amore sembra caduto di me. Come le persone a cui io mi avvicino. No, non mi avrete come voi. Non mi avrete come voi. Non mi avrete, no, no. No, non mi avrete come voi. Non mi avrete come voi. Non mi avrete, no, no. No, non mi avrete come voi. Non mi avrete come voi. Non mi avrete, no, no. No, non mi avrete come voi, non mi avrete come voi, non mi avrete, no. Solo davanti a scegliere, davanti a un posa cenere. Come le prime sigarette, provare ad accenderle. Noi come sempre i primi, primo. Provare a prendere quello che non ci ha dato il destino. Il mio destino, solamente guardare gli altri. Lasciarti, chi rimane, lasciarsi. Guardando tra chi fa prima invita a lasciarci. Ma che vita è sta vita, davvero vivere a questo. Aspetta davvero la fine che davvero cancelli il resto. Non so, non sto a aspettare. La vita lascia ancora me, non lo so. No, non mi avrete come voi, non mi avrete come voi, non mi avrete, no, no. No, non mi avrete come voi, non mi avrete come voi, non mi avrete, no, no. No, non mi avrete come voi, non mi avrete come voi, non mi avrete, no, no. No, non mi avrete come voi, non mi avrete come voi, non mi avrete, no. Mi sono svegliato ed ero senza amici, senza donna, senza casa, senza affetto. Quando capiranno che vuol dire, potranno capire perché scrivo questo adesso. Questa vive, questa vita, questo penso. Come mi risvegliassi ogni giorno è lo stesso. Ma facendo finta rimarrà lo stesso. Sei così finta che rimango freddo. Io so bene come tutti pensano a se stessi. Stringiti a te perché il mondo non vuole bene a nessuno. Tranne che a sé in questo mondo non voglio bene a nessuno. Più a nessuno, il passato cambia un ad uno. Non ho nessuno, se li guardo un ad uno. Se li guardo un ad uno. No, non mi avrete come voi.